perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sono almeno una decina le vittime in uno sbarco di migranti in Sicilia. La carretta del mare sulla quale viaggiavano in 200 si è arenata a pochi metri dalla riva. La crisi di governo, i ministri del PDL hanno appena comunicato le dimissioni irrevocabili. L'informazione è arrivata da una nota di Palazzo Chigi, appena battuta dalle agenzie. Al momento, da quanto ha appreso Radio 24, sono a colloquio con Silvio Berlusconi. Letta e Napolitano vogliono una nuova maggioranza e Epifani dice no ad un governicchio. I mercati intanto reagiscono male alle tensioni politiche. Lo spread tra BTP e Bund sfiora i 290 punti, poi ritraccia molto negative le banche. Non c'è solo l'aumento dell'IVA che scatta tra meno di 12 ore. Oggi sono previste scadenze fiscali che riguardano 20 milioni di italiani. Deciso il giorno della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII. Sarà il 27 aprile prossimo. Il calcio con la Roma giallorossa che sogna. Ieri 5 gol al Bologna, 6 vittorie consecutive in apertura di campionato. Ma ora arriva il difficile Inter e Napoli all'orizzonte. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, il nuovo appuntamento di Radio 24. Saremo insieme fino alle 14 per darvi tutte le notizie che contano. Tutti i giorni dalle 13 alle 14, appuntamento che ha anche una trasmissione per così dire gemella in onda alle 21, firmata da Roberta Giordano ed è Effetto Notte. Vi parleremo delle notizie, vi daremo approfondimenti, vi faremo sentire le voci della giornata ogni giorno. Se volete potete scrivermi, un po' di interazione la conserviamo. Mi trovate su Twitter, Simone Spezia, c'è la pagina Facebook della trasmissione www.facebook.com/effettogiorno. Dunque, in primo piano oggi la nuova tragedia che ha riguardato un gruppo di migranti a Ragusa, riguarda, e non è stato un naufragio a quanto si apprende, a quanto battono le agenzie proprio in questi minuti. Siamo sul litorale di Sampieri, siamo a Scicli nel Ragusano. Da quel che stanno raccontando in questi minuti, gli scafisti avrebbero preso a colpi di cinghia i migranti, facendoli cadere in acqua e uccidendoli. Le vittime sarebbero 13, il barcone aveva 200 persone. Ne parleremo più avanti, ci collegheremo con il sindaco di Scicli, ma in primo piano resta naturalmente la crisi di governo. Crisi di governo che ha avuto, come sapete, un impatto immediato sui mercati. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli tedeschi a 10 anni, è arrivato a sfiorare i 290 punti, poi ha ritracciato lievemente. Sono molto negative le banche in questo momento, naturalmente anche a causa dell'esposizione verso i titoli di Stato italiani. Anche di questo parleremo più avanti, avremo un approfondimento con una collega del Sole 24 Ore, ma veniamo innanzitutto al punto politico di questa giornata. I ministri del PDL hanno appena consegnato le dimissioni, è arrivata una nota di Palazzo Chigi, dimissioni irrevocabili, e sono a colloquio, da quanto ha preso appunto Radio 24, con l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e leader del loro partito. Iniziamo però dalle mosse di Enrico Letta e del Presidente della Repubblica per trovare una nuova maggioranza. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. L'obiettivo del Premier non cambia: andare mercoledì in Parlamento, si partirà dal Senato e chiedere la fiducia su pochi ma ben chiari punti programmatici, mettere dunque alle spalle tutti coloro che vogliono la fine del governo di larghe intese, far uscire alla luce del giorno chi nel Popolo della Libertà, allineandosi alla scelta di Berlusconi, vuole staccare la spina all'esecutivo. E viste le fibrillazioni nel Popolo della Libertà, la scelta di andare a Palazzo Madama non prima di mercoledì è figlia proprio della volontà di aspettare che la fronda verso il Cavaliere prenda corpo, si allarghi fino ad avere i numeri sufficienti, nelle speranze di Letta perché l'attuale compagine di Palazzo Chigi non cambi o venga modificata in pochi tasselli. Molto più ardua invece, fanno notare fonti vicine al Premier, la strada che porterebbe ad un nuovo governo appoggiato da una maggioranza diversa. Scelte queste di Letta concordate con il capo dello Stato. Le priorità per il Paese non cambiano, secondo Giorgio Napolitano: varare la legge di stabilità e poi la legge elettorale. Non si può tornare al voto, è l'imperativo del Presidente della Repubblica prima di questi due appuntamenti. E poco fa un post di Letta sulla legge elettorale: Grillo mente, lui il primo fan del Porcellum. È tutto da Roma, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi però restiamo collegati con Montecitorio e con la situazione politica. Qualche accenno già lo facevamo nei nostri titoli, qualche accenno già lo faceva Vincenzo Miglietta, naturalmente il cuore della questione e il cuore di una possibile nuova maggioranza passa dalle spaccature interne al PDL. I ministri hanno comunicato le dimissioni irrevocabili, come dicevamo, e sono a colloquio con Silvio Berlusconi. Elisabetta Fiorito, sempre da Montecitorio, buongiorno. Sì, buongiorno. Come hai detto tu, dimissioni irrevocabili dei ministri del PDL. Bisogna capire che cosa c'è dietro questo gesto, perché appena è arrivata la notizia non si hanno particolari, semplicemente una nota di Palazzo Chigi che notifica le dimissioni firmate anche da Angelino Alfano. Nel PDL la situazione è sempre più di confusione, in uno scontro tra falchi e colombe. Angelino Alfano e i ministri del PDL si schierano contro il giornale e il direttore Alessandro Sallusti, autore di un editoriale contro i presunti traditori di Berlusconi. Con noi non funzionerà il metodo Boff, l'ex direttore dell'Avvenire, ricordiamo, oggetto di una campagna stampa diffamatoria nei suoi confronti. Se pensa di intimidire noi e libero confronto, scrivono i ministri PDL all'interno del nostro movimento politico, si sbaglia di grosso. Se intende impaurirci il paragone di Gianfranco Fini, sappia che non avrà case a Monte Carlo su cui costruire campagna. Insomma, toni molto duri. Silvio Berlusconi è rientrato in mattinata a Roma, sta incontrando i ministri PDL. Nel pomeriggio, comunque, alle 17 incontrerà deputati e senatori del suo partito per decidere cosa fare in vista del voto di fiducia del governo Letta. Ma tutto dipenderà da questo vertice che sarebbe in corso in questi minuti a Palazzo Grazioli. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Tra un attimo andremo alla situazione per quanto riguarda il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Mi dicono che il collegamento è pronto con Alessandra Schepisi. Dunque Alessandra, sentiamo appunto come vanno le cose dal lato del PD, del Movimento 5 Stelle. C'è anche un'intervista nostra realizzata questa mattina da Giovanni Minoli, col segretario del PD. Alessandra. Sì, buongiorno Simone, dal Partito Democratico. Infatti lo stesso segretario Epifani a mettere le cose in chiaro: il PD non accetterà governisti, altrimenti meglio andare ad elezioni. Noi siamo pronti, non le temiamo, così ha parlato Epifani nel programma Mix 24 di Giovanni Minoli. Allora sentiamo subito la sua voce. No al governicchio vuol dire no a un governo che trova un po' di voti di transfughi e vive una vita stentata. E c'è un'altra possibilità? Lo vedremo dopo mercoledì. Mercoledì è il giorno della verità, tra Senato e Camera, e soprattutto al Senato, lì si capirà cosa succede. Ma lei si aspetta una rottura dentro il PDL? Ma vedo che c'è una grande discussione al loro interno, oggi hanno la loro assemblea dei gruppi, vediamo come finisce. Sta facendo saltare in aria il paese, era evidente che lo spread sarebbe ripartito, ha detto ancora Epifani, chiedendo dunque di chi siano le responsabilità di questa crisi, una crisi che sembra aver ricompattato il PD, anche se le differenze rimangono. L'ipotesi più gettonata è il sì ad un governo di scopo che si occupi della legge di stabilità e della riforma elettorale, ma sugli orizzonti temporali non c'è coincidenza. C'è infatti chi, come Renzi, pensa che non si possa andare avanti a lungo e che bisognerebbe andare comunque ad elezioni a febbraio o marzo. Anche il leader di Salvendola è per un esecutivo con pochi punti programmatici, non ci sono le condizioni per una coalizione di legislatura. Tra i sostenitori di un governo Letta, anche Scelta Civica, che con il ministro Mauro torna ad attaccare il PDL, parla di vero e proprio tradimento contro l'Italia. Invece per l'Urne subito, come sappiamo, i 5 Stelle, ma ci sono parecchi dissidenti, formalmente i fuoriusciti sono 4, almeno una decina potrebbe dissociarsi. Oggi è prevista un'assemblea dei parlamentari pentastellati per discutere proprio di queste cose, ma Grillo non parteciperà. È vero, ma è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi, ci scusiamo per la qualità del collegamento, ma evidentemente colpa delle linee telefoniche e non nostra e non tecnica. Veniamo ad un commento su queste ore. Il punto di Stefano Folli. Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Benvenuto. Allora, come la vedi, un'altra maggioranza è possibile, sì o no? un'altra maggioranza deve essere trovata, perché una cosa è certa, che non possiamo andare alle elezioni adesso, prima di Natale, senza la legge elettorale, che comunque il Parlamento non riuscirà a modificare, ma c'è la Corte Costituzionale che prima di dicembre si deve pronunciare, e probabilmente sarà lei a cambiare l'attuale procello, e poi c'è la legge di stabilità. Insomma, sono due appuntamenti fondamentali che rendono praticamente impossibile, a meno di non voler proprio completamente portare al collasso il Paese, pensare di fare l'elezione adesso. Quindi una qualche maggioranza si deve trovare per arrivare quantomeno alla primavera con questi adempimenti fatti. Poi naturalmente se la maggioranza dovesse essere più solida, se si dovesse manifestare una uscita per esempio dal centrodestra di un gruppo più consistente di parlamentari, si può anche immaginare un patto politico che alla sinistra non piace, ma che è ancora possibile per andare avanti con un orizzonte almeno fino al 2015. Quindi la partita è tutta aperta, perfino considererei anche il caso, secondo me è molto improbabile ma non del tutto da escludere, che nelle prossime ore Berlusconi cambi completamente atteggiamento. I mercati stamattina gli hanno dimostrato che lo spread e la stabilità non sono delle bufale, come lui ha detto ieri, ma sono delle realtà molto consistenti che toccano la vita delle persone, anche la sua. Grazie, grazie Stefano Folli per il punto di oggi. Noi veniamo alle altre notizie, iniziando però da un'altra cosa che ci riguarda. La Procura di Roma ha disposto l'acquisizione dell'intervista mandata in onda oggi da Radio 24, nella quale Steve Piecenik, consulente del Dipartimento americano nel 78 in materia di terrorismo, sostiene di aver avuto un ruolo con le autorità italiane durante il sequestro di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse per attuare una manipolazione strategica al fine di stabilizzare la situazione dell'Italia, intervista realizzata, come sapete, da Giovanni Minoli. Abbiamo parlato di spread, abbiamo parlato di borse, ci torneremo più avanti, ma oggi ci sono anche altri dati importanti, quelli sull'inflazione. A settembre l'aumento dei prezzi al consumo è stato dello 0,9%, con una frenata nettissima rispetto all'1,3% di agosto. Ancora più marcato il dato del cosiddetto carrello della spesa, ossia i beni a maggiore frequenza di acquisto, all'1% contro l'1,7% del mese precedente. Importanti anche i dati europei, l'inflazione scende all'1,1% contro l'1,3% di agosto. E adesso parliamo di due papi. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. E quindi non i due papi che vi aspettavate forse, quindi Ratzinger e Bergoglio, ma come atteso da milioni di fedeli, questa mattina è stata resa nota la data di canonizzazione per Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Per volontà di Papa Francesco saranno proclamati santi in una cerimonia comune in programma per il 27 aprile. La guarigione inspiegabile per la scienza di una donna colpita da aneurisma, il miracolo riconosciuto al Papa polacco che, lo ricordiamo, era stato proclamato beato il 1 maggio del 2011, mentre Roncalli, beatificato il 3 settembre del 2000, salirà agli onori degli altari senza il riconoscimento di un miracolo. Monsignor Loris Capovilla, segretario storico di Giovanni XXIII, accanto a lui fino alla morte, lo ha intervistato Katia Caramelli. Da Papa Giovanni, e adesso ce lo ripete quasi tutti i giorni Papa Francesco, abbiamo imparato soprattutto questo, che in ogni persona che incontro, uomo o donna, fosse anche un grande peccatore, c'è in fronte, porta il segno di Dio. Non posso dimenticare una lezione che ha dato a me Papa Giovanni. Loris, ricordati, finché non avrai messo il tuo io sotto i piedi, non sarai libero e non entrerai nel regno della pace. È la grande lezione che ha dato Papa Giovanni poco prima di morire, mentre aveva tutto il mondo rappresentato davanti a sé, quando quasi per esorcizzare la letizia, la delizia di quel giorno, disse quelle parole sublimi: la mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore. Le elezioni in Austria, la grande coalizione si avvia al bis nonostante un calo del 4%, i socialdemocratici alleati con i popolari raggiungono insieme il 50,9%. was vor der Wahl gegolten hat, nämlich eine stabile Regierung zu bilden, gilt auch nach der Wahl ohne der FPÖ in diesem Land. Quella che era una realtà concreta prima delle elezioni, ha detto il cancelliere uscente Werner Faymann, resta confermata. In questo paese si può costruire un governo stabile senza l'estrema destra del Partito della Libertà. Ma nonostante i proclami, l'ultradestra avanza. Il Partito della Libertà, quello che fu di Haider, ha guadagnato quasi il 4% e sfiora il 22%. Delusione per i Verdi che arrivano al 12%, mentre i liberali di Neos hanno superato lo sbarramento del 4% e faranno il loro debutto in Parlamento. E di questo torneremo a parlare alle 14, come avrete intuito. Cambia l'orario anche di GR Europa e appunto GR Europa sarà, dopo un breve aggiornamento sulle notizie generali, alle 14. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È appena arrivato un comunicato dei sindacati sulla crisi di governo. CGIL e CISL e UIL esprimono preoccupazione per la crisi causata, dicono, dall'irresponsabilità di chi vorrebbe anteporre interessi personali alle condizioni del paese. Chiedono un vero governo, preannunciano assemblee nei luoghi di lavoro, presidi, volantinaggio dai supermercati alle chiese. Letta e Napolitano nel frattempo vogliono una nuova maggioranza. Epifani dice no ad un governicchio. I ministri dimissionari del PDL sono a colloquio con Silvio Berlusconi. Hanno reagito male i mercati questa mattina. Lo spread, la differenza di rendimento tra BTP e Bund, ha sfiorato i 290 punti base, poi ha ritracciato. Sono molto negative le banche esposte verso i titoli di Stato italiani. Non c'è solo l'aumento dell'IVA che scatta tra meno di 12 ore, anzi tra 10 ore e mezza. Oggi sono previste scadenze fiscali che riguardano 20 milioni di italiani. Deciso il giorno della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII, sarà il 27 aprile prossimo. Tragedia a Ragusa, almeno una decina le vittime in uno sbarco di migranti. La carretta del mare sulla quale viaggiavano in 200 si è arenata a pochi metri dalla riva. Gli scafisti li avrebbero buttati giù dal barcone. In apertura di questa seconda parte però parliamo di calcio. Io non so se sia corretto che un giornalista esprima le sue preferenze, sicuramente non quelle politiche, forse quelle calcistiche sì, però diciamo un po' il cuore me l'hai toccato, Dario Ceccarelli, sì, con la scelta di questa canzone. Ma sì, che male c'è. Grazie Roma, perché in tempi così difficili ci fa divertire sotto la pioggia, travolge il Bologna con un diluvio di gol, addirittura 5. È una capolista esagerata la Roma di Totti, con 6 vittorie su 6, 17 gol segnati e uno subito, primo posto raggiunto con una straordinaria leggerezza. Ecco, sarai d'accordo con me, Simone, il suo valore aggiunto è la leggerezza, un'insostenibile leggerezza che rende la Roma un piccolo miracolo che va però sottoposto a nuove verifiche. L'allenatore Garcia dice che ci vogliono almeno 10 partite per tirare un bilancio, sa che l'ambiente facilita gli entusiasmi e dice che bisogna vedere come andrà sabato con l'Inter e poi col Napoli. Però intanto tutto va bene, un calcio spettacolo ma anche calcio produttivo, direi una Zemalandia senza i difetti delle squadre di Zemalandia. Anche con un'ottima difesa rispetto alla Roma di Zemalandia. Perché è equilibrata, cioè c'è un'armonia insolita che colpisce perché, diciamo la verità, all'inizio di campionato tutti i grandissimi interpreti del calcio, i giornalisti più accreditati, mi metto anch'io ma così per caso, non avevano... della Roma mai avevano parlato. Il bello del calcio è che nonostante tutto riesce ancora a sorprenderci. Una parola ancora su Totti, immagino che ti farà piacere, padre nobile. No, cosa dici? Padre nobile che ha compiuto 37 anni ma gioca con l'entusiasmo di un ragazzino, anzi di un pupone. Di un pupone. grazie Dario Ceccarelli. Allora grazie anche per aver alleggerito, insomma, questa parte molto densa della trasmissione. Abbiamo dato ampio spazio la crisi di governo e adesso ci vogliamo tornare. Allora, ogni lunedì e venerdì ad effetto giorno ci sarà un appuntamento realizzato da Daniele Biacchessi, una sorta di pacchetto chiuso, una piccola inchiesta. Nella fattispecie parliamo di numeri, dei numeri del Senato, se Letta ce la può fare oppure no. Dunque, sentiamo. Secondo lei, da quello che vede sui numeri, il Letta bis c'è? Sì, la risposta è sì, c'è. Per il sondaggista Nicola Piepoli c'è dunque il Letta bis. Ma Piepoli, si dice nell'ambiente, ci becca sempre. E non è facile occuparsi di politica, che nel mondo dovrebbe essere scienza, ma che in Italia invece diventa la sommatoria di sterili alchimie dettate da personalismi, dagli equilibri delle segreterie dei partiti, dei loro leader. E specie in momenti come questi, dove si manifestano crisi di governo al buio, la matematica, che non è un'opinione, ci viene in soccorso. Dunque, mercoledì, il premier Enrico Letta si reca in Parlamento, propone il suo programma di governo e chiede la fiducia. E va bene. Il PDL gli vota contro in entrambi i rami del Parlamento, ma non è compatto. Le variabili matematiche possono quindi essere molte. E allora diamo i numeri. Alla Camera Letta bis non ha alcun problema, perché il Porcellum garantisce un premio di maggioranza a PD e SEL, che erano già alleati alle elezioni di febbraio. Dunque alla Camera c'è maggioranza, ma per il Senato i calcoli si fanno difficili, perché i senatori sono 321 e 161 è la soglia richiesta per la fiducia. Senza PDL, grandi autonomie e libertà, ma con il voto di SEL, Letta può contare 137 senatori, ne mancano ancora 24 per arrivare alla fiducia piena. Possono rientrare nei ranghi della vecchia coalizione di centrosinistra i 7 famosi senatori di SEL che erano passati al gruppo misto? Va bene, la soglia si alza a 144, ne mancano sempre 17. Possono soccorrere Letta i 4 fuoriusciti del Movimento 5 Stelle già nel gruppo misto, e si dice almeno 15 che possono rompere con Grillo? Questa soluzione porta a 163 senatori, 2 in più della fiducia, ma è ancora poco. Si può presumere dunque che almeno 5 senatori del PDL abbandonino Berlusconi, avallando così la formazione dell'Letta bis. In questo caso verrebbe fuori una maggioranza di 168 senatori, 7 in più del necessario. Riccardo Ferrazza, collega del Sole 24 Ore, anche lui, come me, in questi giorni ha dato i numeri. Le conclusioni sono che per Letta è praticamente è impossibile pensare di avere i numeri se non ci sono corsi da parte di altri gruppi parlamentari, perché ci sono alcune componenti che hanno fatto capire, hanno una propria disponibilità a sostenere un Letta bis, per esempio i 4 senatori ex Movimento 5 Stelle. C'è poi una componente che è una componente di grande autonomia e libertà, GAL, che è composta da 10 senatori provenienti da PDL e Lega e Movimento del Sud, che potrebbero anche loro andare in soccorso, ma anche se tutto questo si verificasse non sarebbe sufficiente. Allora si guarda ai senatori del Movimento 5 Stelle, lo stesso capogruppo del Movimento di Grillo ha fatto capire che potrebbero esserci dei dissidenti, ma anche in quel caso non basterebbe. Ricordiamo però che nel gruppo misto ci sono 7 senatori di SEL e Vendola proprio sabato ha dato disponibilità a un Letta bis, che sia però un governo di scopo che debba solo cambiare la legge elettorale. E c'è da dire però che dentro il PDL abbiamo visto che ci sono naturalmente posizioni molto differenti, e quindi non è escluso che da lì possano arrivare dei numeri utili a Letta. Certo che è tutto molto ipotetico ed è una maggioranza particolarmente eterogenea, quindi bisognerà poi vedere se lo stesso Letta è disposto ad accettare un incarico su questa base. In soldoni, il Letta bis ci potrà essere nei numeri, dopo 1000 peripezie potrà anche ottenere la fiducia, ma la sua maggioranza sarebbe ancora risicata, perché bastano poche assenze, poche malattie per far traballare il futuro governo. Ed eccoci, e grazie a Daniele Biacchessi per averci fatto chiarezza sui numeri. Noi passiamo adesso alla notizia di cronaca, la terribile notizia di cronaca di questa mattina, che riguarda i 13 migranti morti a largo di Ragusa, in realtà, da quel che si è capito, a due passi dalla spiaggia di Sampieri. Siamo nel comune di Scicli ed è con noi il sindaco Francesco Susino. Buongiorno. Buongiorno. Sindaco, ci può confermare il numero di vittime? Sono 13 persone? Sono 13 persone. Allora, lei immagino che si trovi là dove c'è il barcone, in sostanza? Sono qua. E che cosa vede in questo momento? Bah. Vedo che ci sono 13 cadaveri di giovani, vite piene di speranza, messi sulla spiaggia perché stiamo aspettando il giudice, ricoperti da un lenzuolo bianco, che veramente non so come esprimere la mia amarezza nei confronti di questa cattiveria umana, perché non ci sono parole. Sindaco, a proposito, lei parlava di cattiveria umana, ci conferma, come stanno diffondendo notizie le agenzie in questo momento, che queste persone sono state letteralmente buttate giù dal barcone dagli scafisti, addirittura prese a frustate con le cinture? Penso che sia così, però non posso darle la certezza, ma penso che sia proprio così. Questi racconti che avete raccolto. Allora, sindaco, io le chiedo di rimanere con noi ancora un attimo, noi abbiamo una pausa e poi vorrei ritrovarla per capire innanzitutto che cosa è successo delle altre persone, perché ci sono queste 13 vittime ed è un dramma, e poi su quello stesso barcone c'erano molte persone, ce n'erano circa 200. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora in primo piano, naturalmente, la crisi di governo. Ha parlato proprio pochi istanti fa il presidente di Confindustria Squinzi. Mi auguro che tutta questa instabilità non porti ad una precettazione da parte dell'Europa e a una gestione commissariale. Evocano la possibilità dell'arrivo della troica anche i sindacati CGIL, CISL e UIL, che in una nota comune chiedono governo. Intanto i ministri dimissionari del PDL, il vertice del PDL, sono a colloquio con Silvio Berlusconi. Letta e Napolitano vogliono una nuova maggioranza, mentre Epifani, intervistato da Radio 24, da Giovanni Minoli, dice no ad un governicchio. I mercati, dopo un'iniziale reazione negativa alle tensioni politiche, con lo spread tra BTP e Bund che ha sfiorato i 290 punti base, poi sono parzialmente tornati indietro, hanno parzialmente ritracciato. Sono però molto negative le banche anche oggi. È stato deciso il giorno della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII, sarà il 27 aprile prossimo. E noi torniamo adesso alla tragedia che è avvenuta a Ragusa, o meglio a Scicli, dove 13 migranti sono morti, dopo uno sbarco. C'era una di quelle che vengono definite carrette del mare, che aveva a bordo 200 persone, 13 di loro sarebbero stati buttati giù dagli scafisti, che in questo momento sarebbero nelle mani dei carabinieri. E siamo ancora con il sindaco di Scicli, Francesco Susino. Sindaco, allora, ci ha raccontato che cosa ha visto e che cosa vede su quella spiaggia. Vorrei capire anche adesso se, perché sempre le notizie che continuano ad arrivare, è che le altre persone sarebbero fuggite, gli altri 200 migranti che si trovavano su quella barca. Ma ancora, sinceramente, il numero preciso non lo sappiamo, 200, 150, 160, sì, tante persone sono fuggite, però tante già sono state prese e sono già messe sul pullman per portarle a Pozzallo, dove c'è il centro di riferimento per farle ricollare. Alcune sono state portate negli ospedali Vicignori a Modica per dare le prime cure e vedere un pochettino, dare tutta l'assistenza possibile che si può dare in questi casi, ecco. Naturalmente, c'era della gente in spiaggia quando è avvenuto tutto questo, sindaco? Sì, c'erano dei turisti che hanno subito allertato. Infatti devo dire un grazie anche a questi turisti, a parte il fatto di aver allertato, ma anche di essersi dati da fare per dare i primi soccorsi, perché ce n'erano tanti che avevano bisogno di essere soccorsi e quindi hanno aiutato anche loro, a parte la protezione civile, la polizia di Stato, i carabinieri, la finanza, tutto lo staff, ecco, diciamo che c'è stata una mobilitazione generale. Lei sa, sindaco, ci può confermare se gli scafisti sono stati arrestati, vi risulta? O i presunti scafisti? I presunti scafisti, sì, sono arrestati, sono in caserma. Penso che adesso ci siano le indagini, ma penso di sì, ecco. Grazie al sindaco di Scicli, Francesco Susino, per essere stato con noi. Magari la ricontatteremo nel corso della giornata per avere ulteriori aggiornamenti. Noi torniamo adesso alla crisi di governo, però ci torniamo dal punto di vista dell'effetto sui mercati e soprattutto delle prospettive. Avete sentito poco fa gli aggiornamenti, come sempre, alle 13.30 sui mercati che ci arrivano dai colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Adesso vogliamo fare un punto cercando di guardare avanti, cercando di capire che cosa può succedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, soprattutto. Naturalmente bisognerà anche vedere come si scioglieranno i nodi politici. Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa possiamo e che cosa dobbiamo aspettarci, Isabella? Ma direi che i mercati stanno alla finestra, infatti il nostro spread, il differenziale del rendimento tra i titoli italiani e tedeschi, si è mosso questa mattina di 20 centesimi, che non è poco, è arrivato fino a 2,80, poi è tornato indietro, una decina di centesimi li perde finora rispetto alla chiusura di venerdì, perché il mercato sta a vedere se il governo Letta resisterà, non cadrà, e soprattutto se l'Italia dovesse decidere di andare alle urne, lo farà dopo aver fatto la riforma elettorale. Il mercato ci tiene moltissimo, perché la cosa peggiore per noi, il mercato, la crescita, è lo stallo politico. Il mercato però, secondo me, sta anche scommettendo che l'Italia chiuderà e porterà in porto la legge di stabilità e quindi darà la conferma che c'è il controllo sui conti pubblici, perché i BTP sono i nostri titoli di debito pubblico, e ricordiamo che insomma noi siamo un paese con un debito pubblico che va verso quota 132%. Gli italiani continuano a comprare, hanno un buon sostegno, la maggior parte ormai dei titoli di Stato italiani è in mano agli italiani, e questo è sicuramente un fattore che stabilizza il nostro spread, come anche, ricordiamolo, gli scudi anti-spread, non soltanto l'eventualità remota ancora adesso del meccanismo di stabilità, lo scudo anti-spread, ma ci sono degli scudi già in vigore che sono quelli della Banca Centrale Europea, cioè i finanziamenti che ha fatto le banche. Tra l'altro, Isabella, quello scudo antispread che tu evocavi, quello grosso, richiede delle condizionalità e probabilmente l'intervento della Troica. Sì, però ecco, devo dire che per ora l'Italia, cioè, ha un problema di deficit PIL al 3,1, però ricordiamo, insomma, ci sono molti stati dell'eurozona periferica che stanno ben oltre il 3, compresa la Francia tra l'altro, quindi noi da un punto di vista di andamento dei conti pubblici non siamo così inadempienti, quindi anche come riforme strutturali sì, potremmo fare molto di più. Il problema della condizionalità per noi è se noi avremo mai un governo che si può impegnare per i prossimi anni, perché in un programma di aiuto triennale tu devi avere comunque delle assicurazioni, cioè l'Europa ti può prestare, il Fondo Salva Stati ti può sostenere finanziariamente, volendo anche la BCE può acquistare eventualmente i tuoi titoli di Stato sul secondario, se però tu rispetti le condizioni che sono sempre agganciate alle riforme strutturali per la crescita e il contenimento dei conti pubblici. E quindi se non c'è un governo affidabile, è chiaro che la condizionalità è più debole da imporre, cioè più difficile, quindi io vedrei più quel rischio di un'Italia che deve stare nella condizione di poter chiedere aiuto, ma il mercato nessuno pensa che noi lo chiederemo, però certo dobbiamo essere in grado di chiederlo se mai dovesse servire. Grazie, grazie ad Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, poi la trovate, insomma, non so se ha già preparato o se lo preparerà tra poco, un video sul sito www.elsole24ore.com e poi trovate ogni giorno i suoi commenti, le sue analisi su questi temi sul Sole 24 Ore. Grazie Isabella, buona giornata. Buongiorno a tutti. Noi, insomma, con la crisi di governo sapete che è saltato il blocco dell'aumento dell'IVA e quindi ci saranno una serie di persone che saranno sottoposte ad una scadenza fiscale importante. Vi ricorderemo, insomma, non sono più alle 9 del mattino, 9 in punto, e però il countdown, il conto alla rovescia verso l'aumento dell'IVA, ho voluto mantenerlo e quindi alla fine di questa trasmissione naturalmente ce l'avrete, non ce lo faremo mancare alla fine di effetto giorno. E però non c'è solamente la scadenza dell'IVA, perché oggi da questo punto di vista è una giornata molto molto importante e anche molto complicata. Tutta l'attenzione è concentrata sull'IVA, finita nel tritacarne dell'ennesima crisi politica. I commercianti di abbigliamento e prodotti per la casa, i commercialisti e gli altri professionisti che oggi stanno correggendo prezzi e contabilità in vista dell'aumento di domani, sono però in buona compagnia. Il fisco è prodigo di scadenze per tutti e solo quelle in calendario oggi impegnano almeno 20 milioni di italiani. In moltissimi comuni, tra cui Milano, scade il termine per il pagamento dell'acconto TARES anche per i contribuenti che nel caos di questi mesi non hanno ricevuto alcun bollettino. Scade poi la rata degli acconti fiscali per chi ha scelto il pagamento dilazionato ed è anche l'ultimo giorno per correggere il modello unico presentato apposta entro il 1 luglio scorso. A tener compagnia ai contribuenti ci sono poi oggi, fra le altre cose, i versamenti dell'imposta di registro sulle nuove locazioni, le accise sul gas metano e l'imposta sulle assicurazioni. Una giornata ricca, insomma, un'ottima occasione per allenarsi in vista dell'ingorgo fiscale di fine anno. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque, questo è il quadro. Noi adesso ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo, ci sarà un riassunto delle notizie, come avete sentito lo facciamo ogni quarto d'ora perché è in movimento in queste ore, ma come sentite le cose succedono e quindi ad ogni quarto d'ora naturalmente è diverso. E poi ci sarà l'appuntamento con Mario Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Per il riassunto delle notizie a quest'ora ci affidiamo alle prime pagine dei quotidiani online per vedere come stanno aprendo. Iniziamo dal Sole 24 Ore, c'è una breaking news in primo piano su Squinzi, ve l'abbiamo riferito poco fa, il presidente di Confindustria che dice che il rischio è il commissariamento dall'Unione Europea, ma il titolo vero e proprio è lo scontro tra i ministri PDL e Sallusti. Con noi il metodo boffo non funziona e Letta riceve le dimissioni irrevocabili. Ampio spazio anche alla tensione sullo spread e a Piazza Affari che va male. Il Corriere della Sera, ancora su Alfano e i ministri del PDL che dicono non abbiamo paura, il metodo boffo non funzionerà. Il secondo titolo è dedicato allo sbarco a Scicli, all'annegamento di 13 immigranti frustati e gettati in mare dagli scafisti, titola il Corriere della Sera, che ha anche, a proposito della crisi di governo, l'editoriale del direttore Ferruccio De Bortoli, l'indignazione dei moderati. Repubblica, ci dimettiamo ma non ci intimidite, questo è il titolo. Alfano e i ministri del PDL, stop al metodo boffo, Merkel preoccupate, sindacati contro Berlusconi. Spazio anche per la lite sul Porcellum tra Grillo e Letta, mentre il Movimento 5 Stelle manifesta Viale Mazzini contro l'informazione del servizio pubblico e Grillo a colloquio con il direttore generale della RAI, Gubitosi. Questi titoli dei tre principali quotidiani online, nei prossimi giorni magari cercheremo di rendere anche più social e più internet, per così dire, questa trasmissione, trovare spazio anche per altro. Intanto la linea va agli aggiornamenti dagli Stati Uniti, ad America 24 e a Mario Platero. America 24 di Mario Platero. buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone, grazie per la linea da New York. Mario Platero. I've made it clear now for months and months and months. We have no interest in seeing a government shutdown. But we've got to address the spending problems that we have in this town. John Boehner, presidente della Camera, lo avete sentito nel fine settimana, ha detto: ci sarà, se sarà necessario, un government shutdown, la chiusura del governo americano. Potrebbe esserci davvero se entro questa notte, alla mezzanotte, la Camera, controllata dai repubblicani, non raccoglierà una proposta del Senato per approvare il cosiddetto stopgap measure, un provvedimento di spesa aggiuntiva che dovrebbe consentire al governo di funzionare fino al 15 di novembre. Oggi, infatti, alla mezzanotte, scade il bilancio americano del 2013. Domani comincia l'anno fiscale per il 2014, ma se entro stanotte non si trova un accordo su un bilancio che in questo momento vede le parti straordinariamente distanti, domani mattina non ci saranno soldi, non ci sarà un budget, non ci sarà appunto un bilancio. L'oggetto del contendere è l'Obamacare, il progetto di riforma sanitaria che Barack Obama è riuscito a conquistare nel suo primo mandato, un progetto sanitario che costa, che era stato finanziato. Ebbene, i repubblicani vogliono togliere i finanziamenti a questo progetto e vogliono che in qualche modo sia rinnegato. Obama naturalmente si oppone, una battaglia politica durissima. Se ne aggiunge un'altra, perché il 17 di ottobre, pensate, non ci saranno più soldi in cassa degli Stati Uniti d'America se non sarà alzato il tetto sul debito, che è un'altra partita politico-economica che si sta giocando fra democratici e repubblicani. Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. The two of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. I reiterated to President Rouhani what I said in New York. While there will surely be important obstacles to moving forward, and success is by no means guaranteed, I believe we can reach a comprehensive solution. Il presidente Barack Obama ha colto tutti di sorpresa quando ha annunciato che aveva parlato con Hassan Rouhani, il presidente iraniano, una conversazione gradevole, civile, ha detto il presidente. Abbiamo cercato di gettare le fondamenta per un dialogo, abbiamo un embrione, abbiamo una strada molto difficile, ma da una parte abbiamo la possibilità di poter negoziare un controllo dei progetti nucleari iraniani, dall'altra possiamo incoraggiare l'Iran riducendo la severità delle sanzioni. Una svolta storica, perché era dal 1979 che un presidente americano e un presidente iraniano non si parlavano. Sentiamo cosa capitò nel 1979. Actions of Iran have shocked the civilized world. For a government to applaud mob violence and terrorism, for a government actually to support and in effect participate in the taking and the holding of hostages is unprecedented. Jimmy Carter, il presidente Jimmy Carter, siamo nel 1979, dice che per la prima volta nella storia uno Stato è diventato uno sponsor del terrorismo, ha incoraggiato l'assedio dell'ambasciata americana a Teheran e soprattutto ha incoraggiato il sequestro dei diplomatici americani a Teheran, decine di ostaggi nelle mani di terroristi, come li ha definiti il presidente Jimmy Carter. Si apriva in quel momento una crisi storica, non soltanto fra gli Stati Uniti e l'Iran, ma all'interno stesso dell'America, perché nel 1980 ci sarebbero state le elezioni presidenziali. The most serious terrorist threat is if one of those radical nations who believe in terrorism as a policy should have atomic weapons. Ecco, abbiamo fatto un balzo in avanti, siamo già al dibattito presidenziale del 1980. Il presidente Ronald Reagan aveva assunto una linea molto dura, ma aveva detto anche che la diplomazia sotterranea poteva funzionare. il presidente Carter aveva cercato poi una misura estrema, un intervento militare per liberare gli ostaggi, fallì miseramente, ma in questo suo intervento parla di terrorismo, parla di pericolo nucleare, parla della necessità dal punto di vista americano di controllare pericoli che potrebbero diventare gravissimi per la sicurezza nazionale. What I do think should be done once they are safely here with their families and that tragedy is over, then I think it is time for us to have a complete investigation as to the diplomatic efforts that were made in the beginning, why they have been there so long, and when they come home, what did we have to do in order to bring that about? Ronald Reagan risponde, appunto, parla di diplomazia sotterranea, cerca di essere in qualche modo aperto, non vuole attaccare direttamente Carter, visto che si tratta di una questione delicatissima, ma parla anche lui di terrorismo, parla anche lui di armi nucleari. Beh, sono passati 30 anni e continuiamo a parlare di terrorismo e di armi nucleari, ma subito dopo quelle elezioni e per via di quest'atto terroristico in Iran, che cosa succede? Now day one of Ronald Reagan's presidency and day one of freedom for 52 Americans. Though thousands of miles apart, these two... Un newscaster della ABC dice: è il primo giorno della presidenza Ronald Reagan, il presidente ha votato ieri, l'Iran ha immediatamente annunciato la liberazione degli ostaggi. Si voltò un'altra pagina di storia, ma si entrò comunque in un periodo che sembrava interminabile, quella dell'escalation nucleare, dell'escalation del terrorismo. Ecco, questa è la svolta storica di cui vi parlavo, perché questo dialogo fra Rouhani e Obama è un dialogo preliminare, ma è un dialogo che toglie il gelo, è un dialogo che in qualche modo rimette in comunicazione questi due paesi. Rouhani ha avuto un certo successo a New York, un presidente che ha aperto un dialogo coi media, sembrava tutto sommato aperto, simpatico, un bonaccione, un approccio completamente diverso rispetto al suo predecessore Ahmadinejad, duro, diffidente, cattivo, persino aggressivo nelle sue dichiarazioni. Forse si è davvero aperta una nuova pagina di storia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, nella speranza che questa apertura fra Iran e Stati Uniti porti davvero a una svolta storica su più fronti. The Dire Straits, Sultan of Swing. E caro Mario Platero, me l'ascolterei pure tutta Sultans of Swings, perché mi piace, però il tempo è esaurito. Dunque è il momento dei ringraziamenti a te innanzitutto per le tue notizie dall'America. Grazie a Filippo Auregi in regia, a Laura Faggin in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, mi trovate su Twitter, Simone Spezia, c'è la pagina Facebook della trasmissione www.facebook.com/effettogiorno. A domani. Ricordati! Mancano 10 ore e 5 minuti all'aumento dell'IVA.